dentro il fior. Il mio figlio e la mia bega torba gli occhi al creator. Voglio il nulla del creato, darò inaudiversal, darò inaudiversal, e atmosfera mia, e atmosfera mia vital, e atmosfera mia vital, e atmosfera mia vital, ciò che chiama sì, ciò che chiama sì peccato, ciò che chiama sì peccato, ciò che chiama sì peccato, morte mal. Vino e affetto questa sillaba, no, trovo senso non fastidio. Parto in vizio, tutto sento l'uomo divio. Vizio, vizio, vizio, vizio, vizio, parte tondo una la tebra per il verde oscurità. Della tenebra che tenebra tornerà, sor la luce usurpa e afferma il mio centro a ribellio, il mio centro a ribellio. Poco andrà, poco andrà, poco andrà la sua tento, poco andrà la sua tento, poco andrà la sua tento, verso il sol, verso il sol, verso il sole sulla terra, verso il sole sulla terra, verso il sole sulla terra. Distruzione, divino e avvento questa sillaba, no, troppo tempo lo consiglio, no, morto in vizio, non lo sento, non lo consiglio.